Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 195 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana parleremo di fisica, ma soprattutto di astronomia. Cari ascoltatori, quante volte avete sentito parlare di acqua? Beh, se fosse una ricetta, l'acqua sarebbe uno dei costituenti fondamentali per realizzare questa ricetta. È di acqua che parla un paper pubblicato qualche giorno fa su AstroPiege, quindi pubblicato su Archive, intitolato Water Depletion in Disk Atmosphere of Herbig AB Stars. È un articolo in cui si parla dell'acqua presente non tanto sui pianeti ma attorno alle stelle, e noi ne parleremo quest'oggi con la professoressa Ilaria Pascucci, assistant professor presso l'Università dell'Arizona. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Fabio e grazie per questa opportunità di condividere il nostro lavoro. Grazie a te per la disponibilità, Ilaria. Ilaria, con te parleremo di questo paper, cercheremo di capire il contenuto e cercheremo di capire soprattutto l'importanza e soprattutto da dove viene l'acqua attorno alle stelle, quindi come c'è finita sui pianeti. Ma a questo punto, per cominciare, lascio a te la parola per le 100 parole iniziali con cui introdurremo questa 195esima puntata di Caccia Fotone. A te la parola. Sì, va bene, ti ringrazio. Dunque, la nostra ricerca si inquadra nell'ambito degli studi che sono finalizzati a capire come la Terra abbia acquisito e, importante, anche mantenuto l'acqua durante la sua evoluzione allo stato liquido. Sappiamo che gli oceani ricoprono circa il 70% della superficie terrestre e, come diceva Fabio nell'introduzione, i biologi pensano che l'acqua nel suo stato liquido sia stata fondamentale per lo sviluppo della vita sulla Terra. Una domanda che ci si è posti da decenni è appunto come l'acqua abbia, come la Terra abbia acquisito l'acqua. Ed è interessante che dallo studio del sistema solare ancora non ci sia riusciti a dare una risposta. Io e i miei collaboratori abbiamo iniziato una serie di progetti per detettare l'acqua nel materiale da cui possono formarsi i pianeti e che orbita attorno alle stelle giovani. E il nostro obiettivo è quello di capire se l'acqua è presente nella regione dove si possono formare pianeti tipo quelli terrestri e come la sua abbondanza evolve col tempo, fino al periodo in cui questi pianeti possono effettivamente formarsi. Ed è questo il goal del nostro progetto, e il paper che presentiamo è uno dei primi in questo progetto. Benissimo Ilaria, a questo punto ci fermiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione cercheremo di capire soprattutto come si sono formati i pianeti attorno alle stelle, quindi da dove viene effettivamente quest'acqua, e invece nella seconda parte della trasmissione cercheremo di capire quali sono i contenuti del paper che avete pubblicato qualche giorno fa. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Lantern that filled the night with electric glow. The smiles and the kisses that you gave me seemed so special then, until I came to know that your whole life is just our deception. And it's sad, but it's oh so true, that the only one you end up deceiving combs her hair in the mirror and legs are worn and they're withered. Your lies too lifeless to believe. You're a beauty, it's my duty to adore you. But no one can implore you. All is lost when you deceive, and some fat-ass plumber is your conquest. Or a faceless man who'll never understand why a girl like you, a living goddess, needs to feel the comfort of his hands. Your whole life is one deception, and it's sad, but it's oh so true that the only one you end up deceiving comes a raven. The Great Deceiver di Dennis Logan. Questo è il primo pezzo musicale che vi state ascoltando nella puntata numero 195 di Caccia Fotone, all'interno della quale stiamo parlando con la professoressa Ilaria Pascucci, assistant professor presso l'Università dell'Arizona. L'ospite di questa settimana ci sta parlando di un paper pubblicato qualche giorno fa su AstroPiege, in cui si parla dell'acqua presente attorno alle stelle quando le stelle sono in formazione. E quindi cercheremo di capire effettivamente da dove viene quell'acqua presente sui pianeti, piccoli o grandi che siano. In fondo però stiamo parlando di spazio, e allora chissà che cosa avrebbero pensato loro dello spazio. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. E allora, facendoci accompagnare da Spock e Kirk, questa settimana cominciamo parlando della formazione dei pianeti attorno alle stelle. Quindi la prima domanda che ti voglio fare, Ilaria, è come si formano i pianeti attorno alle stelle e se in fondo noi deriviamo dalla spazzatura che ruota attorno alle stelle. Esattamente, è proprio quello che volevo dirti, infatti, che i dischi protoplanetari, e quindi il materiale da cui si formano i pianeti e da cui deriviamo anche noi, non è altro che un residuo praticamente della formazione stellare, quindi del gas e della polvere, la nebulosa da cui si è formato il nostro Sole. E davvero lo possiamo chiamare un residuo, perché questo gas e questa polvere da cui si formano i pianeti non è altro che un centesimo della massa del Sole. Ilaria, effettivamente da che cosa deriva il disco protoplanetario? Beh, questo dipende praticamente dalla formazione e anche dalla contrazione del gas mentre si forma sulla stella. Non tutto il gas viene innanzitutto all'inizio si pensa sia sferico, ma durante l'accrescimento e a causa della rotazione per conservare il momento angolare, praticamente il gas viene ad avere questa forma più appiattita, quindi a lasciare la forma sferica e a formare questo tipo di disco attorno alla stella. In realtà non è così piatto come lo pensiamo un disco, perché più ci si allontana dalla stella e meno è la gravità che il gas e la polvere sentono rispetto alla stella, e quindi il disco, come dire, si apre verticalmente più ci si allontana dalla stella, quindi non è proprio piatto come potremmo immaginare. Quindi fondamentalmente una stella si crea per accrescimento, si uniscono tra virgolette degli atomi di idrogeno, la stella cresce. Attorno alla stella si crea questo disco protoplanetario e grazie a questo disco si formano poi i pianeti. Ora è chiaro che, come dire, l'elemento base è l'idrogeno, ma tutti gli altri elementi, inclusa l'acqua, come si creano? Le altre molecole praticamente vengono formate durante l'evoluzione della stella, ed è questo infatti una ricerca scientifica molto interessante. Le prime stelle, probabilmente i primi materiali erano soltanto idrogeno ed elio, e quindi tutti gli altri, quelli più con più atomi, probabilmente, cioè sicuramente si sono formati come fusione all'interno della stella, e questo materiale viene rilasciato negli ultimi stadi di evoluzione della stella nel mezzo interstellare. E per i pianeti invece come funziona tutto quanto? Possiamo immaginare tipo all'inizio dei grani come quelli della sabbia di polvere, così che ruotano attorno alla stella, e per diversi processi, tra cui quando i grani sono più grandi anche la gravità, questi grani diventano sempre più grandi fino a formare il nucleo dei pianeti. Una volta che il nucleo è presente, e se il gas del disco è ancora presente, il gas viene attratto lo stesso per gravità sul pianeta, e quindi si forma un'atmosfera. Quindi diciamo che se dovessimo dare un domicilio all'acqua, diremmo che il domicilio è nel disco protoplanetario. Ma l'acqua pensiamo sia sempre stata presente nel disco, ma come ben sappiamo l'acqua ha tre stadi, gassoso, liquido e solido. E a seconda della temperatura che c'è nel disco, sia come distanza dalla stella, si può immaginare appunto che più vicino alla stella sia più caldo e lontano dalla stella sia più freddo, e anche verticalmente nel disco c'è questo gradiente di temperatura, e quindi l'acqua si può trovare in diversi stadi, ed è molto difficile trovarla nello stato liquido. Per esempio si può guardare al nostro sistema solare. Nel caso di Venere, che è troppo vicina al Sole, l'acqua potrebbe essere stata presente all'inizio della sua formazione, ma essendo troppo caldo l'acqua è evaporata. Nel caso di Marte, che è più lontano dal Sole, l'acqua potrebbe essere stata presente ma in stato liquido, ma al momento, visto che è troppo freddo, è solo presente in stato solido come ghiaccio. Una cosa interessante è che dagli studi che si sono fatti di recente, negli ultimi 2-3 anni, è rimasto chiaro che tutte le stelle giovani hanno questo residuo di gas e polvere che orbita attorno a loro, e quindi tutte le stelle hanno la potenzialità di formare i pianeti. E un'altra cosa che sappiamo, lo stesso da osservazioni fatte di recente, per esempio con telescopi infrarossi nello spazio come lo Spitzer Space Telescope, è che questa polvere e questo gas si attenuano con il tempo, mentre la stella invecchia, e diminuiscono in massa, quindi diventano ancora più tenui di quello che sono inizialmente, che abbiamo detto era un centesimo della massa della stella. A questo punto, Ilaria, ci fermiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare un altro piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio, e quando torneremo in studio affronteremo la parte più interessante, tra virgolette, della trasmissione, e cioè la discussione e l'analisi del paper pubblicato su AstroPage. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così... Family. Infidels di Dennis Logan. Questo è il secondo pezzo musicale che vi stiamo proponendo all'interno della 195esima puntata di Caccia Fotone, e dentro questa puntata ci stiamo occupando di astronomia, di argomenti legati all'astronomia. In realtà stiamo parlando di acqua, ma di acqua presente attorno alle stelle, acqua poi che va a finire sui pianeti, e quell'acqua poi sotto opportune condizioni darà origine forse alla vita. È un paper pubblicato qualche giorno fa su AstroPiege che ce ne parla. Noi siamo in compagnia con la professoressa Ilaria Pascucci, assistant professor presso l'Università dell'Arizona, e con lei stiamo parlando di un paper pubblicato appunto su AstroPiege intitolato Water Depletion in Disk Atmosphere of Arabic Ib Stars. Ecco, in questo paper in particolar modo si parla di acqua, ma soprattutto questo paper ci aiuta anche, come dire, nell'intersezione della ricerca di cui noi abbiamo parlato tante volte qui a Caccia Fotone, cioè la ricerca di esopianeti, pianeti esterni al sistema solare. Sì, direi effettivamente di sì. E infatti uno dei meccanismi attraverso i quali questo gas e questa polvere vengono a diminuire nel disco non è l'unico, ma uno dei meccanismi, pensiamo sia importante, appunto la formazione dei pianeti. Quindi questi pianeti che accrescono, dicevamo, prima la polvere e poi il gas, e quindi è importante capire sia come i tempi scala, in altre parole quanto tempo questo materiale è presente attorno alle stelle, perché ti dice quanto tempo hanno i pianeti per formarsi, e allo stesso modo anche studiare l'evoluzione chimica, che è quello che stiamo facendo in questo, abbiamo cominciato a fare in questo articolo, per capire quali molecole siano presenti nel momento in cui si formano i pianeti, quale composizione il disco abbia in quel momento. Ilaria, una mia curiosità, che spero sia anche una curiosità dei nostri ascoltatori, questi dati da quali telescopi vengono? Questa è una domanda interessante. Abbiamo ottenuto questi dati con il Very Large Telescope in Cile, nel deserto dell'Atacama, e questo è effettivamente importante, cioè ci siamo spostati nel posto più secco della Terra per detettare acqua extraterrestre ed essere sicuri che l'acqua nell'atmosfera terrestre non contamini praticamente la nostra misurazione. Abbiamo utilizzato uno spettrografo su questo che è sul telescopio VLT, il Very Large Telescope dell'ESO, che è di 8 metri. Ed è stato molto interessante per me, perché sono andata personalmente ad osservare e a portare avanti, a cominciare anche questo progetto in collaborazione con altri europei e americani. Ilaria, in che banda avete guardato per detettare, tra virgolette, l'acqua? Abbiamo deciso di osservarla nell'infrarosso, una lunghezza d'onda dello spettro elettromagnetico più lunga dell'ottico, e in particolare verso 3 micron, dove ci sono molte righe dell'acqua e di altre molecole associate all'acqua, come per esempio l'ossidrilo H. Abbiamo scelto in particolare queste transizioni perché sappiamo da modelli di dischi protoplanetari che dovrebbero tracciare distanze radiali dalla stella dove si possono formare pianeti terrestri, quindi attorno alle distanze astronomiche 1, 2 distanze astronomiche, per esempio la Terra appunto si trova a una distanza astronomica, quindi per tracciare quella regione. In tutta sincerità, Ilaria, se dovessi definire una sola cosa fra le cose che vincono il premio di cosa più importante scoperta attraverso questa ricerca, quale leggeresti come primo classificato? Insomma, qual è il goal di questa ricerca? La cosa più importante per noi era innanzitutto di cercare di detettare queste acqua e molecole associate chimicamente all'acqua, che potrebbero essere associate attraverso la formazione dell'acqua o la distruzione dell'acqua. tempo. E poi da lì utilizzare metodi e teorie per fare un link tra le nostre osservazioni che si basano su detettare l'acqua nell'atmosfera di questi dischi, per capire quanta acqua c'è nelle regioni più basse del disco dove si possono formare questi pianeti, quindi cercare di fare un link tra le molecole più importanti nell'evoluzione e nella formazione dei pianeti e cercare appunto di detettarle. E l'analisi su quante stelle è stata fatta e soprattutto di che tipologie? Dunque, l'analisi è stata fatta su un campione di 11 stelle che chiamiamo in gergo Air Big AB Stars. Queste stelle sono stelle giovani, 2-3 milioni di anni, e hanno però una massa più grande di quella del Sole, una massa che è 2-3 volte quella del Sole. E abbiamo scelto questo campione perché ovviamente essendo stelle più massicce anche i dischi sono più massicci e sono più facili da detettare rispetto a dischi attorno a stelle di massa solare. Quindi questo era il primo progetto, quello di dimostrare la fattibilità del nostro studio, dopodiché pensiamo di spostarci ad osservare oggetti di massa più piccola. Ora, se capisco bene dal vostro paper, voi cercando fondamentalmente l'acqua attorno alle stelle, quindi nei dischi protoplanetari, siete arrivati ad alcuni risultati interessanti. Avete analizzato ben 11 stelle e ne avete ricavato che fondamentalmente l'acqua è carente attorno alle stelle di grande massa. A questo punto ti lascio la parola perché i risultati più importanti voglio che me li descriva tu. Dunque, ci sono due risultati principali da questo studio che abbiamo portato avanti. Il primo è che per la prima volta siamo riusciti con questo spettrografo sul VLT a misurare la velocità di queste molecole, in particolare dell'ossidrile OH, che è un prodotto dell'acqua, e abbiamo visto che c'è una componente di questo gas che si muove verso di noi e una componente che si allontana da noi, il che dimostra che queste molecole effettivamente orbitano attorno alla stella in quello che si può pensare come un anello all'interno di questo disco protoplanetario. La seconda cosa che abbiamo trovato, che è anche una cosa nuova, è che c'è meno acqua nell'atmosfera dei dischi di queste stelle un po' più massicce del Sole di quello che ci aspettavamo. La cosa interessante, pensiamo quello che stia succedendo, è che l'acqua viene distrutta dalla radiazione di queste stelle più massicce, e quindi quello che vediamo è il prodotto della distruzione dell'acqua, vediamo l'OH. Un'altra cosa interessante, una teoria poi che abbiamo sviluppato e che vorremmo testare, abbiamo già alcuni dati per testarla, è che pensiamo che anche le stelle di massa più piccola attraversino un periodo come dire di carenza dell'acqua nella loro atmosfera, perché come dicevamo prima il disco diminuisce di massa col tempo e diventando sempre più tenue la radiazione della stella centrale penetra sempre di più nell'atmosfera del disco e riesce sempre di più a distruggere queste molecole, e quindi potremmo essere nel caso in cui è difficile preservare acqua durante la formazione dei pianeti. Questa è una teoria che vorremmo testare con osservazioni, e come dicevo abbiamo già un gruppo di stelle che potrebbero darci qualche indicazione riguardo a questa teoria. La presenza dell'acqua dipende moltissimo dalla radiazione della stella. Quindi se tu parti già con una stella più massiccia, a più radiazione, ovviamente anche quando il disco è massiccio, la radiazione ti distrugge, che è più potente, ti distrugge le molecole dell'acqua sulla superficie del disco. Invece per una stella piccola, siccome ha meno radiazione, questo è l'ultravioletto praticamente, siccome ha meno radiazione, quando il disco è massiccio c'è più protezione di molecole e gas per l'acqua e quindi non viene distrutta, ma col tempo, quando il disco diventa più tenue, questa radiazione penetra di più nel disco e quindi può distruggere queste molecole d'acqua. Quindi pensiamo che con l'evoluzione ci possa essere un periodo in cui le stelle, i dischi attorno a stelle di massa piccola siano simili ai dischi di stelle di massa grande. Ilaria, quale risultato e soprattutto su quale stella vi ha convinto di più, vi ha stupito di più? Dunque, la stella più interessante, penso, nel nostro campione è la stella V380 Ori, perché quello che vediamo è che la riga dell'OH è asimmetrica, con una parte del gas, quello che si sta allontanando da noi, che è più brillante rispetto a quello che si sta avvicinando da noi. E questo è molto interessante perché asimmetrie simili in altre righe sono state trovate in altri oggetti e potrebbero essere attribuiti alla presenza per esempio di pianeti o di compagne che perturbano il moto del gas che pleriano attorno alla stella. E quindi questo è interessante perché un metodo potrebbe utilizzarsi per detettare il moto del pianeta che non si vede attraverso i cambiamenti di simmetria della riga. Quindi vogliamo fare una proposta per testare questa teoria su delle binarie di cui si conosce la distanza e vedere come il profilo della riga cambia col tempo, di modo che poi questa tecnica si possa utilizzare per oggetti più piccoli, tipo per esempio pianeti contenuti all'interno del disco. Senti, siamo ormai in conclusione di Cacciafotone, adesso ci manca solamente l'ultimo pezzo musicale e poi la domanda zainetto. Io so però che volevi ringraziare qualcuno, chi è questo qualcuno? Sì, esattamente. Dunque, all'inizio ho cominciato questo progetto come leader del progetto ed è un progetto che coinvolge un team internazionale, sia americani che europei. In particolare per questo lavoro sicuramente vorrei ringraziare il post-dottorando Davide Fedele, un altro italiano che lavora all'estero e ha portato avanti questo lavoro in maniera eccezionale e ha preso la leadership sulla riduzione e l'analisi dei dati. E proprio ora stiamo continuando su un altro campione di stelle di massa più piccola, dove speriamo appunto di testare l'ipotesi che abbiamo ci sia difficoltà a preservare l'acqua durante la formazione dei pianeti. In aggiunta vorrei anche ringraziare il nostro sponsor, che è l'Agenzia Federale Americana, il National Science Foundation. Senza lo sponsor non saremmo riusciti a portare avanti né le osservazioni e né il paper. E allora, con un'altra esperienza, non bastassero quelle che abbiamo visto quest'anno di Cervelli in Fuga, ci fermiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare un altro piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi al via la domanda zainetto. A dopo. Grande ciao. Strong men are walking side by side within our land. One is called Head Boy and the other is called a man. We preach equality, but what do we understand? Oh, will it be ended in my time? Will it be E allora siamo nella coda finale di Cacciafotone, Ilaria, a questo punto andiamo con la domanda zainetto, ormai la domanda che facciamo a tutti gli intervistati, a tutti coloro che capitano una volta alla settimana qui sotto le grinfie di Cacciafotone, e quindi ti domando: qual è la cosa che ricorderai di più di questo lavoro, di questo paper, di questa ricerca, e che metterai nel tuo zainetto da ricercatrice per portarti dietro nelle prossime ricerche? Insomma, di che cosa si arricchisce il tuo bagaglio culturale con questo lavoro? Dunque direi la esperienza più grande attraverso questo lavoro per me è stata quella di sognare innanzitutto un progetto dall'inizio, quindi crearlo dall'inizio e portarlo avanti, avere il consenso e l'aiuto di un team molto competente e avere appunto questa possibilità di leadership e imparare molto anche dalle persone con cui si lavora. E penso che questa esperienza sia stata molto formativa per me, è stata uno dei primi progetti grandi che ho portato avanti ed ha avuto un buon successo, ne sono molto orgogliosa. Ilaria, in teoria non ci sarebbe bisogno neanche di raccontarlo, basta il tuo tono di voce per capire quanto sia stato importante per te questo lavoro. E allora con questa tua ultima risposta si conclude questa 195esima puntata di Caccia Fotone, l'appuntamento per tutti voi e alla settimana prossima e l'augurio e il classico di buona scienza a tutti. Ilaria, grazie ancora e in bocca al lupo. Okay, grazie Fabio. E con chi stai parlando? Dici a me?